Sommario. Anzi, mi era così già da ridere? Non si sa. Conte, stasera c'è il seguente, secondo Conte che non potrà essere in casa. Non conta portiere Chin e la... Non da porca c***a... Chiedo asilo. Emergiamo dalla sintonia. Queste sintonie. Ma è un nuovo trend, Drago, perché le radio si stanno ammassando una sull'altra. Ce l'hai fatta, allora, sì. Non ho ancora capito la tua tecnica. Di cosa parliamo oggi, Drago? Oggi che è mercoledì. Il mercoledì è il giorno della... È il giorno delle cose serie, no? Ecco, infatti, perché quindi in mezzo alla settimana non possiamo... Parliamo di Renzi, va bene? Perché siamo le robe serie, Renzi. Ma Renzi, come dire, è il simbolo della gioventù che sta avanzando. Ah, sì? Sta andando oltre, sta prendendo il potere. E quindi è simbolo lui. È simbolo, è lui l'unico che si salva un po' di questi giovani che vogliono prendere il posto dei vecchi. E quindi io mi chiedo, perché Renzi, quando parla... Quando dice le sue cose viene attaccato soprattutto da quelli del suo stesso partito. Te lo dico io. Aspetta, lasciami finire. Renzi, poverino, ha solo il difetto di non far parte della nomenclatura. No. Perché nel PD, nel suo partito, è così. Non se tu dici quello... qualcosa che va contro D'Alema, contro Bersani, vieni mangiato, cannibalizzato. Quella è una vecchia teoria, la vera teoria. E lui non riuscirà mai a scrollarsi di dosso il fatto di aver partecipato alla ruotona della fortunona. Lui ha comprato le vocali, hai capito? Quello. Avendo comprato le vocali nessuno lo prende sul serio. Cioè tu immaginati se improvvisamente venisse fuori che Monti ha partecipato al Rischia Tutto. No vabbè, ma Monti a Rischia Tutto no, dai. Beh, perché? Scusa, l'ha fatto John Cage. Sì, vabbè, è vero. John è Cage vero. Ha partecipato a Rischia Tutto e sapeva tutto di funghi. E ha guadagnato anche un sacco di soldi. Vedi, Monti potrebbe andare anche lui alla ruotona della fortunona con Mike Bongiorno e vincere un po' di soldi. Si presenta che... su cosa? Ah, no, non so. Si presenta sulla ruota della... No, e poi tra l'altro che Mike Bongiorno è morto. Anche John Cage è morto. Eh sì, e fra un po' anche Monti, K Monti adesso, dai, cioè non K Monti adesso cosa? È come K adesso Monti cosa? Mi sembra chiaro, K adesso Monti cosa? Cracra, Deng è morto, voglio ma dire. Non allora... tanto Deng è morto non si è sentito, si è solo sentito cracra, quindi Renzi, tra le altre cose, ha anche usato il termine romanziere come insulto a Veltroni, no? Questo è geniale, no? Sì, questo piace anche qui a te. Gli do ragione, perché il romanziere in realtà, voglio dire, perché anche politico sarebbe un'offesa gravissima. Lo è già da un po'. Però Renzi non può tanto usarla perché poi dopo si sentirebbe come, vedrebbe una freccia luminosa che lo indica. Invece il romanziere, per fortuna, di romanzi, romanzi. Come si dice? La Renzi, Z com'è? Dolce, Renzi. Dura, come si dice? Renzi, anche perché poi la Renza, tu sai che cos'è, no? Io lo so cos'è, Drago, ma per chi non lo sapesse, la Renza è... Chiedo asilo. E ora, bambini, ricreazione. Scusate... avrei bisogno di un'informazione da voi due. Ciao bambino Alberto. Siamo i vigili, non ho capito. Ciao bambino Alberto. Vabbè, ma io i convenevoli. Vabbè. Allora, voi che guardate i TG, no? E leggete i giornali. Ma tu dai per scontato che io guardi i TG io e i giornali. Io mi informo su internet. Vabbè, certo. Siete adulti, no? Moderno. Sarete informati. Vabbè, perché dai. Sono preoccupato per un fatto politico, no? Fatto tu, politico. Politico, tu politico. Perché? No, perché cosa c'entri tu con la politica? Non sai neanche di quello di cui stai parlando. No, ma vuoi farsi capire da voi l'impresa titanica. Allora, mi date. Sento parlare di una tassa. Una tassa sulle bibite gasate, che lo Stato, il governo vuole mettere sulle bibite, no? Ma è gasate o gassate? È uguale. Io dico gasate, no? E quindi come bambino sono sorpreso e indignato, no? Se voi mi date qualche informazione in più, mi fareste un favore, perché io sono in sbattimento. Cioè vorrei capire il procedimento, è una cosa che sta avvenendo? No, vabbè, allora innanzitutto è lo Stato che si preoccupa per la tua salute. E quindi devi essere contento, dai. Ecco, e nel frattempo si mette in tasca un po' di soldi e raddrizza un po' i conti. Comunque stai tranquillo perché questa tassa di cui si è parlato, si è un po' fantasticato, in realtà poi non la mettono più. Sì, però ho sentito dire che sei obbligato a mettere un 20% di succo di frutta nelle cose. Magari non si sgasa, cioè non c'entra niente col gas. Infatti. Allora mi state dicendo così, cioè Perché io devo stare tranquillo. Se voi mi dite che non c'è, mi tolgo un peso. Vabbè, togliti il peso. Buonanotte. Non c'è, non c'è. Sono 3 settimane che soffro di insonnia. Che per me, ragazzi, è una cosa epocale, no? Per le bibite gasate. Perché i miei genitori mi hanno minacciato di togliermi le bibite. Le bibite di bocca. Voglio vedere, questa è un'iniziativa così lodevole per la salute, per forza che i tuoi si sono appassionati. Anzi, avrebbero anche fatto bene. La direi. Salute. No, no, ma quale salute? Qui si tratta tutto di prezzo, no? Prezzo che sarebbe aumentato. Ma vabbè, dai. Che poi, a dirla proprio tutta, no? A me bere roba gasata non mi piace mica, Cioè, allora non lo sopporto. Ma allora, scusa, sta storia dell'insonnia cosa c'entra? Perché ti preoccupi? Non le bevi, le bibite gassate e basta. Chi ti ha detto che non le bevo? Se non ti piacciono. Ma no, le bevo e come? Le bevo dopo il procedimento di sgasamento, no? Cioè, non ho, io non ho capito. Tu no, non sopporti le bibite gassate, però le bevi lo stesso. Sì, ma certo dopo, che le bevo, sì, l'ho già detto. Perché mi piacciono sgasate, vero? Cioè, le bibite che prima erano gasate, ma dopo che sono sgasate. Ma io sono un po' d'accordo. Ma pensa, come sei d'accordo? E perché metti il ghiaccio nella Coca-Cola? Mica per raffreddarla, no, dici per diluire. E anche un po' per sgasarla, è più buona. Cosa c'entra no? il ghiaccio con lo sgasamento? Quando metti il ghiaccio il sale devi mettere per sgasare. Tu metti un pizzico di sale nell'acqua minerale. No, il sale a Coca-Cola non si mette. Ma poco poco che non si sente. Mai si mette l'aspirina, al massimo proprio. Quindi incitamento all'uso di droga, siamo a posto. Vabbè, dai, io allora. Comunque, io non ho capito, tu perché non vuoi bere gasato? È buona la roba gasata, no? Tutto il mondo beve gasato, cioè è una cosa famosissima, la Coca-Cola, l'aranciata, la Fanta, tutte queste cose sono tutte gasate. No, ma io non la concepisco, è una cosa per me è inaccettabile. Anche perché, allora, io devo bere tutti quei gusti, no? I gusti delle bibite. L'aranciata, il chinotto, il ginger, la cedrata. Sì. Mi piacciono un casino, ma mi piacciono sgasate, no? Vabbè. Hai capito? Quindi, sì, io ho capito, sì, Drago. E come fai? E poi io devo bere, il mio problema è che io devo bere, a me piace bere a garganella, no? Sì, glu glu glu glu glu, quindi, cioè senza interruzione. Ma se bevi a garganella, sei gasato, cavolo, ti viene... Garganella, ma Garganella non è un personaggio dei Puffi? Sì, un puffo, bravo, quello sì, mi quello con le sopracciglioni. Ma no, questi qui cosa? Garganella è bere a tracannare, no? Vabbè, ma se bevi gasate non esatto, puoi, perché ti viene tutta la schiuma in bocca, un bel casino. E ti esce dal naso poi. Comunque, qui io mi sono industriato, le bevo lo stesso, le sgaso, mi metto lì perché non è mica una cosa da niente. Beh, sgasare, cosa si fa? Si agita la bottiglia e basta. Ma no, quello lo fa Gildo. Lui agita la bottiglia per 2 ore, no? E poi apre e esce tutta la schiuma, no? E va tutto per terra. Sì, invece ma... io no. Hai capito? Ma tu no. Io prendo una bottiglia vuota, no? Sì. Poi prendo bibita, uso un imbuto, verso nella tutta la bibita nella bottiglia vuota, no? Glu, glu, glu, glu, e versa, versa, versa. E versa, versa, versa. E questo devi farlo 3-4 volte, no? Come? Questo travaso. Da una bottiglia all'altra. Sì, perché più si muove la bibita, più si sgasa. Sì. Quindi diventa proprio ferma, no? Sì. Ferma, come il vino. Il sommelier del chinotto sgasato. Ma dove siamo finiti? Sì, ma dai. Fermo. Ma sì, ma vuole fermo? Vabbè, mi sembra... Allora, le voglio sgasate, le sgaso perfettamente, no? E poi giù, e poi comincia a procedere con la garganella, no? Glu glu. Glu glu e glu glu e glu glu. E no, tu no, hai rovesciato tutto per terra. Con chi parla? Ma cioè, arrivava la visione per forza. Ecco, continui a fare agitare così, non le agiti con le mani, no? Devi fare il travaso, e travasa, e travasa, e travasa, e poi si sgasa. Quando è sgasata, la cedrata sgasata. È una cosa... l'importante è che non sia tiepida, no? Perché allora, e se allora lascia un po', come dire, imbarazzati. Garganella, quello di cosa c'entra? Quello dei puffi. Qui è garganella, tracanna. Puffi. La cedrata, sgasata, glu glu glu, garganella. I puffi sono così. Chi? E siamo tutti blu. Ma Gildo, allora? Salti su, da giù. Fermo. Fermo. Fermo come la cedrata, no? Garganella! Mancano 93 giorni alla fine del mondo. A che ora è la fine del mondo? A che ora è la fine del mondo? Beh, fra 93 giorni. Sì, l'ora non la si sa precisa, però più o meno 5 non sappiamo quarto, neanche esattamente cosa succederà. Però, insomma. Però, insomma, tenetevi pronti soprattutto anche a mandare i disegni che si riferiscono alla fine del mondo. Do, non è re.